L'impegno di Andrea è stato grandissimo, importante, fondamentale. E davvero faccio molta fatica, come potete immaginare, a dover parlare, non avrei mai pensato di doverlo fare, della sua scomparsa, della sua morte e del suo impegno anche. Spero di riuscire a trasmetterlo a tutti voi, ma l'hanno visto in questi anni tutti i cittadini italiani, quanto sia stato il suo impegno in generale per un buon giornalismo, per una buona indagine, per delle buone ricostruzioni di pezzi di verità che nel nostro paese si fa così fatica a mettere insieme. Rispetto alla vicenda di Ustica, come diceva lei, sì, è stato il primo a 27 anni. Quella notte l'amico militare da Ciampino gli ha detto che doveva stare attento, di non farsi fregare, che quell'aereo era stato abbattuto, e da allora la sua battaglia è andata sempre solo nella direzione di riuscire a scoprire per quale motivo ci avevano gli uomini delle nostre istituzioni raccontato delle balle, raccontato delle menzogne, perché nell'immediatezza dell'evento ricordatevi sempre che la verità ufficiale era cedimento strutturale, tanto che fallì l'Itavia, tanto che andarono a casa 1000 persone, lavoratori dell'Itavia, è successo di tutto e di più. E Andrea Purgatori, da quella telefonata dell'amico militare che quella notte gli fece, gli permise di non fermarsi mai, anche quando, ricordatevelo sempre, dopo pochi mesi di questa vicenda, pochi ne parlavano ancora. Era scomparsa l'attenzione. Aveva vinto il cedimento strutturale, aveva vinto l'incidente che a volte succede di un aereo che cade. Andrea non ha mai smesso di cercare, andate a leggere, ricostruiremo il suo percorso, ma nell'82 lui era in Inghilterra, lui era con John, con Trenziu, lui era con le persone che in quella notte del National Transportation Safety Board raccontavano già dall'unico tracciato sopravvissuto che quell'aereo era stato abbattuto in mezzo ad altre presenze di aerei intorno. C'erano su quel tracciato quella notte, e allora Andrea è riuscito a sentire John Trenziu, è riuscito a sentire le persone che potevano aiutarlo a ricostruire l'evento, e non ha mai abbandonato la battaglia. Poi siamo arrivati anche noi, ma era già l'85-86 e abbiamo contribuito a smuovere altri pezzi delle nostre istituzioni, la magistratura, il governo che decise di andare a recuperare il relitto in fondo al mare, quindi insomma le cose dall'86 in poi, come sapete, si sono mosse. Ma se non c'era questo tarlo che comunque Andrea Purgatori ha lasciato fin dall'inizio sulla possibile non verità di quel cedimento strutturale, anch'io forse e anche tutti noi non saremmo qui oggi a poter raccontare che per merito suo alla verità siamo arrivati. Il 19 è stato abbattuto, non è stato un cedimento strutturale, e uomini delle nostre istituzioni hanno contribuito a impedire che si arrivasse a questa verità. Non sappiamo ancora chi è stato, questo è un problema del nostro paese, del governo, della diplomazia del mio paese, che dovrà pur riuscire a farsi raccontare dagli amici alleati, paesi amici ed alleati, che cosa ci facevano quella notte nei nostri cieli, tanto che se, per errore, abbattendo un aereo civile, ha permesso loro di non avere la forza, il coraggio, la dignità di raccontare quello che dovevano fare quella notte. Questo è il grande, come dire, motivo che ci induce a continuare sempre pensando ad Andrea, la battaglia che anche lui ha iniziato i primi giorni per raggiungere tutta la verità, anche gli autori materiali di questo evento. Lo faremo anche per lui, lo facevamo per tutti i nostri cari, oggi lo facciamo per i nostri cari, per Aldo Davanzali che è stato trattato come è stato trattato rispetto a questa vicenda, e adesso più che mai anche per Andrea Purgatori, glielo dobbiamo. Quindi insomma uno dei suoi lasciti è fare un giornalismo che non crede necessariamente alle verità ufficiali. Certo, credo che questo sia il messaggio chiaro che ha voluto lanciare fin da quando aveva 27 anni, quella è stata la sua strada, e come vediamo negli ultimi anni ha continuato da grande, da persona matura, da grande giornalista qual era, a raccontare pezzi di verità, storie importanti che sono potute avvenire nel nostro paese negli anni, e la ricostruzione storica di tantissimi pezzi di storia del nostro paese li ha fatti nelle ultime trasmissioni, nelle ultime grandi trasmissioni che ha condotto su Atlantide.